Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Il cuore ha le dimensioni di un pugno chiuso e ha una forma simile ad una pera con la punta rivolta verso il basso. Il cuore è l'organo simbolo dell'amore, segue il ritmo delle emozioni. Normalmente in una persona adulta il cuore si contrae 60-70 volte al minuto. In una persona innamorata molte di più. A volte si arriva a 100 senza rendersene conto. Non sei più tu che comandi quando sei innamorato. Quando il tuo cuore batte forte per un'altra persona, non sei più tu che comandi. È lui. Manuale d'amore, l'avete riconosciuto senz'altro. Intanto buongiorno, è bellissimo, a me emoziona sempre. Quale modo migliore per iniziare la giornata? E anche dare il benvenuto al nostro primo ospite della giornata, il dottor Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta e direttore della rivista Psicologia Contemporanea. Dottor Mazzucchelli, buongiorno e benvenuto. Nicoletta, sempre un piacere. Dottor Mazzucchelli, puntiamo sul cuore, ripartiamo dal cuore, e questo è il momento, anzi dovrei dire, prendendo spunto dal titolo del suo libro che esce proprio oggi in libreria, questa è l'era del cuore. Parla un po' di tutti noi, no? È vero. Siamo tutti, e quindi è proprio un libro che vuole parlare al cuore, perché è ciò di cui c'è bisogno oggi. Partirei dalla dedica, perché una dedica che a me ha colpito molto, è un uncino secondo me molto potente. La dedica suona così: a te e alla decisione che prenderai alla fine di questo libro. Esatto. Ecco, beh, forse tutti noi abbiamo una decisione da prendere che non stiamo prendendo, ma forse non ne siamo neanche consapevoli. Sì, l'idea è proprio un po' questa, Nicoletta. Questo libro vuole accompagnarti a prendere una decisione che cambierà la tua vita. È una decisione che nel profondo in realtà a un qualche livello conosciamo, ma che tendiamo a procrastinare, a rinviare, eppure lo sappiamo quello che dovremmo fare. C'è un qualcosa importante che io devo fare e che anche lei, Nicoletta, deve fare in questo momento, e che anche chi ci sta ascoltando lo sa. C'è qualcosa che bisogna fare, ma che rimandiamo. E perché lo rimandiamo? Perché serve il coraggio di fare quelle cose lì che in fin dei conti ci mettono davanti a un bivio e ci fanno superare gli ostacoli. Dottor Mazzucchelli, ma cos'è l'era del cuore e in cosa si differenzia dalle ere che l'hanno preceduta? Questo è un libro che vuole aiutare a generare valore in senso lato, vuole aiutare l'individuo ad avere più valore in senso lato, e l'idea è che ogni era storica ha avuto un'attività particolare, un lavoro duro capace di generare questo valore. Agli esordi era l'era del corpo ed era il lavoro fisico, lo sforzo fisico capace di farti generare valore. Tanto più tu eri forte, tanto più andavi in battaglia e vincevi, oppure tanto più eri forte, tanto più potevi resistere nell'arare il campo e quindi poi generare, grazie a questo sforzo fisico, cibo in abbondanza per te e per le persone a te care. Poi cosa è successo? A un certo punto il tipo di lavoro duro è cambiato ed è arrivata l'era della mente. Nell'era della mente non era più lo sforzo fisico, ma lo sforzo mentale. E chi è che riusciva a prosperare? Le persone brave con le idee, con i numeri, a organizzare gli individui tra loro per mettere a terra i progetti. Ecco, la mia osservazione è questa, che oggi il lavoro duro è cambiato ulteriormente e le persone che hanno prosperato nell'era della mente iniziano a perdere colpi, non riescono più a mantenere gli standard di vita di sempre. Perché questa cosa? Perché è arrivata l'era del cuore. Nell'era del cuore il lavoro duro non è lo sforzo fisico, non è lo sforzo mentale, ma è lo sforzo del cuore, lo sforzo emotivo, è avere coraggio. Ecco. E quindi ci riagganciamo alla decisione. All'idea, perché il sottotitolo del libro infatti è Come trovare il coraggio di essere felice. Ma perché crede che il coraggio e la felicità siano tra loro intimamente connesse? Dunque, diciamo che è frutto proprio di un'esperienza personale sulla mia pelle, ma in realtà anche insomma delle persone con le quali ho lavorato negli ultimi anni. L'idea è che la felicità sia sempre frutto di una scelta coraggiosa. Ci vuole coraggio, secondo me, per crescere dei figli felici. Io ho 3 figli. Perché ci vuole coraggio per crescere figli felici? Perché devi trovare il coraggio di affrontare quelle paure, quei timori, quelle emozioni e sederti insieme a loro e contestualizzare determinati temi, di avere il coraggio coraggio di restare fermo su determinate regole, devi avere il coraggio invece di mediare e di andare incontro su altro. Oppure qual è l'elemento primo della felicità in un matrimonio? Anche qui il coraggio di sedersi davanti al partner e affrontare quella questione, no? Oppure un lavoro felice da che cos'è che è dato? Dal coraggio di fare quell'investimento, dal coraggio di reimpostare la propria professione, dal coraggio di prendere una persona che ti aiuti o di allontanarla talvolta perché non è lì il posto per lei. Quindi il coraggio è, secondo me, il primo ingrediente della felicità da questo punto di vista. Come facciamo a trovare il coraggio? A volte pensiamo di averlo. È vero, c'è. Ma io credo che ci sia, è dentro di noi, ed è tendenzialmente, principalmente all'interno delle nostre paure. Le emozioni sono il cuore del libro e sono anche l'elemento fondante nell'era del cuore. Il coraggio è la paura affrontata. E quindi noi non dobbiamo fare la lotta alle nostre paure, ma dobbiamo invece avvicinarci con curiosità, studiarle, interrogarci su quello che è il loro significato, perché all'interno della paura c'è una grande energia, che è l'energia del coraggio. La paura genera coraggio e il coraggio genera felicità. La paura, io dico, che è il primo ingrediente chimico dell'entusiasmo e quindi anche del coraggio, perché Nicoletta, se facciamo tutti un po' caso e attenzione alle cose che oggi ci entusiasmano, vediamo che tutto ciò che oggi ci entusiasma una volta ci spaventava. E questo cosa vuol dire? Che ciò che ci spaventa oggi, se ben affrontato, un domani potrebbe entusiasmarci. Lei dice che il suo libro è una sorta di terapia al contrario. Come mai ha deciso di usare questo termine? Il libro davvero è bellissimo. Io grazie. Perché a proposito di cuore, arriva direttamente al cuore e parla al cuore, a tu per tu. Esatto, quello era proprio l'intento, che mi riesce molto bene farlo quando parlo dal vivo con le persone, con le platee. Farlo per iscritto per me è stata una grande sfida ed è stato quindi molto scavare al mio interno, e questo è già un qualcosa del processo terapeutico di autoanalisi. Ma è una terapia al contrario perché dopo aver lavorato per tanti anni, per oltre 10 anni, con pazienti tra loro anche molto diversi, quindi aver fatto da loro terapeuta e aver ascoltato io la loro storia, e avere, anzi direi di più, grazie all'ascolto della loro storia, compreso molte cose sulla mia vita personale, ho deciso di provare a fare un processo inverso, cioè questa volta lo psicologo non ascolta, ma lo psicologo si racconta. E la speranza e l'idea è proprio questa, che nel raccontare la mia storia, una parte anche intima e importante della mia storia personale, chi ascolta possa avere quelle stesse illuminazioni che io all'epoca ebbi nell'ascoltare le storie dei pazienti. Quindi l'idea è quella di raccontare le mie 4 vite professionali, la gavetta, lo psicologo divulgatore, lo psicoterapeuta e l'ultima, quella dell'imprenditore. Per ognuna di queste storie io enuncio 4 principi utili a vivere una vita piena. E infatti proprio nel libro lei racconta le sue 4 vite professionali e per ciascuna enuncia i 4 principi per il successo. Però dice che la parola successo va presa con le pinze. Qual è il giusto significato allora di questo termine? Successo. Successo, esatto. Non c'è un significato universale, ognuno deve avere il suo, ma il libro un po' accompagna anche in questo processo, nel cercare di mettere a fuoco ciò che per me è successo. Se io non rifletto su questa cosa, se io non ho una mia definizione di successo, finirò per adottare la definizione di successo di qualcun altro. E questo è un problema. Ho visto tanti pazienti, purtroppo, che hanno raggiunto degli obiettivi anche molto importanti, ma che corrispondevano al traguardo del successo di altre persone, non il loro. Allora, per capire ciò che per noi è il successo, dobbiamo interrogarci sul nostro cuore. Ecco perché l'era del cuore. Dobbiamo entrare in contatto con i nostri valori, con le nostre emozioni. Da lì possiamo capire che cosa vogliamo far succedere per sentirci in pace con noi stessi e felici. Dottor Mazzucchelli, io la ringrazio. Il libro è bellissimo, L'era del cuore, ricordo il titolo. Leggendolo mi sono già venute altre spunte, altre domande, richieste di aiuto, di spiegazione, e quindi io la prenoto già per una molto prossima volentieri. Puntata. Intanto grazie di cuore. Buona giornata a lei. Diretta, grazie, un saluto a tutti quanti. E per oggi è tutto, noi come sempre ci sentiamo dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Vi auguro una buonissima giornata.